Italia in controluce. Buongiorno a tutti, oggi è il 10 settembre, Italia in controluce parla della difesa di Berlusconi, l'appellarsi alla Corte Europea per i diritti umani di Strasburgo. Sì, perché alla Corte di Strasburgo dei diritti dell'uomo è arrivata in queste ore la difesa di Silvio Berlusconi contro la decadenza da senatore. Questo ricorso è condensato in circa 33 pagine, nel mirino c'è la legge Severino e in particolare la sua retroattività, ma i giudizi della Corte, lo ricordo, sono molto lenti. Alcuni pareri giungono anche dopo un anno e più. Vi chiediamo al 349-238-6666 se secondo voi questa tecnica difensiva di Berlusconi è un modo per allungare i tempi e per dilatarli sempre di più sulla questione della decadenza, oppure proprio una scelta difensiva che sfiducia di fatto anche le scelte politiche del Parlamento e posta l'attenzione sulle questioni dei diritti umani calpestati. 349-238-6666, mi collego subito con Alessandra Schepisi. Sì, Daniele, buongiorno. Ecco, tu parlavi del ricorso presentato dai legali di Berlusconi alla Corte di Strasburgo e ieri ricordiamo che il relatore Augello del PDL ha proposto anche un rinvio alla Corte Europea di Giustizia di Lussemburgo con una procedura accelerata per accertare la compatibilità della legge Severino con i principi di diritto comunitario. Quindi questa era una delle tre questioni pregiudiziali, mentre Augello però non è entrato invece nel merito del ricorso a Strasburgo. Quindi ricapitoliamo. Oggi alle 20 si preannuncia un nuovo duro scontro tra PD e PDL, c'è un nuovo round in giunta che si gioca tutto sulle questioni pregiudiziali. La prima è l'ipotesi di un ricorso alla Consulta, e cioè Augello ha chiesto alla giunta di verificare l'ammissibilità di un ricorso alla Corte Costituzionale, poi la questione dell'interpretazione del merito della legge Severino sollevando direttamente i profili di costituzionalità e la proposta, appunto, come dicevo, di un rinvio alla Corte Europea. Ed è notizia poi di poco fa che Lucio Malan del PDL in giunta ne presenterà una quarta che riguarda il presunto carattere amministrativo della misura della decadenza, che secondo il senatore è invece un valore penale perché è afflittiva tanto quanto il carcere. Dunque stasera si vota su queste questioni pregiudiziali, PD e Grillini sono pronti a bocciarle con una seduta a oltranza, PDL invece sul piede di guerra, pronto a disertare la riunione se il PD vota questa sera contro, ha detto poco fa Brunetta, il governo Letta cade, anche Alfano è intervenuto, ha detto siamo esterrefatti al comportamento del PD in giunta, mentre i democratici contrattaccano e dicono no a ricatti. Dunque la crisi sempre più vicina, sempre la più la crisi è vicina. Grazie Alessandra Schepisi. Allora, prima di dare la parola a Raffaella Calanda, a cui ho chiesto anche lei se questo è un modo per allungare i tempi oppure una scelta difensiva, e ho aggiunto che può essere una scelta difensiva che di fatto sfiducia la scelta politica del Parlamento e sposta l'attenzione su altre questioni come quelle dei diritti umani calpestati. Sono i vostri sms, che sono come sempre tantissimi. Maria Rosaria Trunfio dice che a prescindere da ogni altra considerazione un vero statista si sarebbe dimesso per sollevare da ogni imbarazzo il Senato e l'Italia. Qualcuno dice magari in questo anno e mezzo di tempi si cambia la legge Severino, questa volta la legge non l'ha fatta Alfano, Massimo da Rimini. Giovanni, per Giovanni dice solo un modo per renderci ridicoli agli occhi del mondo. C'è chi invece conferma la linea difensiva come Carlo, come Giovanni, per esempio da vari punti diversi dell'Italia, che danno ragione a Berlusconi e dicono che in Parlamento c'è una sorta di fumus persecutionis, che è un atteggiamento di questi anni del Popolo della Libertà. Allora, Raffaella Calanda. Sì, Daniele, allora mettiamo un po' di punti. Innanzitutto il discorso della dilatazione dei tempi oppure strategia difensiva è diritto di Silvio Berlusconi e della sua difesa ricorrere alla Corte Europea di Strasburgo, e così ha fatto. Nel loro ricorso di 33 pagine, come ricordavi, in sostanza una delle questioni principali sollevate è quella di, in riferimento all'articolo 7 della Convenzione Europea, ossia nulla pena sine legge, ossia il principio della irretroattività di cui tanto si è parlato della legge Severino, per cui non ci può essere una pena in assenza di una legge che identifichi un reato. Era facoltà, è facoltà di Berlusconi fare ricorso a Strasburgo e lo ha fatto. Ovviamente ci può essere anche la lettura, diciamo, di tipo politico nel caso in cui la giunta decidesse di aspettare, prima di pronunciarsi, quindi prima di votare sulla decadenza di Berlusconi, di aspettare un'eventuale decisione di Strasburgo. Ma questo non avverrà, sembra essere sempre più chiaro, anche perché i tempi di Strasburgo sono molto lenti, possono passare circa in media 3-4 mesi prima di pronunciarsi sulla sola ammissibilità del ricorso. Cioè, per avere un parere finale si può arrivare anche oltre un anno. Anche oltre un anno sicuramente, perché prima si deve pronunciare sull'ammissibilità, poi deve decidere se dare o meno la priorità alla causa di Berlusconi, così come è stata chiesta dall'ex premier, e quindi poi pronunciarsi nel merito. In media un anno, ricordiamo che sono ben 14.650 le cause pendenti a Strasburgo. Da una parte quindi c'è l'iter della difesa che si rivolge alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dove c'è anche un giudice italiano. Dall'altra parte però, come ricordava anche Alessandra Schepisi da Roma, ci sono altri due percorsi. Da un lato il relatore in giunta dell'immunità e delle elezioni, che ha sollevato e ha chiesto di sottoporre il caso alla giunta europea di Lussemburgo, quindi un altro organo che dovrebbe in questo caso andare a verificare l'osservanza del diritto nell'applicazione dei diritti dell'Unione Europea, dei trattati. Cioè, ancora una volta al centro c'è la legge Severino e il rispetto o meno della legge comunitaria. Ma non dobbiamo mai dimenticare che il 19 ottobre poi ricomincia a Milano il nuovo processo d'appello, che è però sull'interdizione dei pubblici uffici, ossia il processo che dovrà stabilire per quanti anni Berlusconi dovrà restare fuori dagli incarichi pubblici, non più 5 come era stato inizialmente stabilito dalle precedenti sentenze, ma da 1 a 3 secondo quanto prevede la legge tributaria e come chiesto dalla sentenza della Cassazione dello scorso 2 agosto. Bene, io ti ringrazio Raffaella Calandra, ringrazio anche i tantissimi sms che si possono così riassumere e fanno capire quanto ancora questo paese sia molto diviso dal punto di vista politico. Da Francesco di Reggio Emilia, che dice che per lui è una scelta difensiva per evidenziare i diritti calpestati, e chi come Donatella da Genova dice che gli fa orrore questa difesa agonizzante e soprattutto antidemocratica. Un paese diviso, un paese che va comunque verso una crisi politica quasi inevitabile per un voto che non sappiamo se ci sarà questa notte o domani. Comunque sappiamo solo che alle ore 20 c'è questa convocazione, lavoro di giunta delle elezioni in Senato, e naturalmente nei nostri giornali radio vi riferiremo di quanto è accaduto. Ci risentiamo domani, che è l'11 settembre, Italia incontro Russia.